ascoltare un programma radiofonico dove sai già perfettamente cosa accade. E cioè che musica ascolti e che aria tira e che atmosfera puoi respirare. Hai sbagliato frequenza. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E non so neanch'io dove sto andando. Ho già già. Sei sulla frequenza della benevolenza, M2O. E qui, ogni giorno, alle 18, c'è qualcosa che cammina. Già. Dai, dai, andiamo avanti. Sì, dai. Sì. Thank you. Oggi il cammino desidera percorrere questi sentieri. Desidera lasciarsi trasportare da questo venticello. Scusate se stresso, non sono depresso. E che l'appuntamento è importante. Questo sabato 24 giugno. Inaugurazione estiva. Discoteca Altro Mondo. Rimini, Italia. Ore 22:30. Discoteca Altro Mondo. Questo sabato 24 giugno. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale.